se vuoi, resta qua. Canzone da da, ti ramanda, più me distrusso che lusso, giù ni russo, natura morta, da dentro è storta, mangiavo una torta, dentro una cesta. Natura morta, da dentro è storta, mangiavo una torta, dentro una cesta, venne giocata, iniziò una festa. Mi domanda, che lusso, giù di russo, mi domanda, che lusso, giù di russo, che lusso, giù di russo, che lusso, giù di russo, che lusso, giù di russo. Però questa parte mi sa che